Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando diciamo cose tipo le persone non cambiano, facciamo impazzire gli scienziati. Perché il cambiamento è letteralmente l'unica costante di tutta la scienza. E a volte si cambia per scelta, a volte per necessità. Anche il nostro stile alimentare segue questa regola. E a proposito di regola, come ogni giovedì in linea con noi c'è il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. In effetti i cambiamenti alimentari sono veramente all'ordine del giorno, soprattutto dopo le vacanze, Nicoletta. Possono essere i chili di troppo che ci fanno cambiare la dieta e la nostra alimentazione, ma sappiamo bene anche che ci sono persone che cambiano l'alimentazione per ragioni di salute oppure per delle scelte etiche o anche solo per curiosità, e ce n'è un po' per tutti i gusti, da vegetariani, vegani, fruttariani, paleolitici, insomma ci sono termini e modalità molto varie. E poi c'è il discorso del glutine e dell'intolleranza al glutine, che sta diventando sempre più frequente e che interessa sempre più persone. E di questo parleremo oggi insieme ai nostri ospiti, focalizzando la nostra attenzione proprio sul glutine, sull'intolleranza al glutine, e successivamente anche nella seconda parte della trasmissione sulla scelta vegetariana. Ma che cos'è il glutine? Cosa serve? Dove si trova? E soprattutto perché per alcuni di noi la sua presenza nella dieta è intollerabile? Se volete saperne di più, se avete informazioni da condividere con noi, chiamateci 800 24 0024. Intanto noi abbiamo chiamato il professor Vincenzo Stanghellini, professore di medicina interna dell'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, noi sappiamo che ci sono persone che sviluppano nei confronti del glutine un'intolleranza permanente, sono i celiaci. Il loro numero negli ultimi anni sembra aumentato e ci si chiede perché. È merito degli esami che permettono di formulare delle diagnosi più precise? È cambiato il glutine? Siamo diventati invece noi più sensibili? Professore. Ma sì, effettivamente le diagnosi vengono fatte molto più precocemente e molto più diffusamente. Anche solo 20 anni fa la diagnosi di celiachia era relativamente rara e si faceva nei casi tipici. Oggi viene fatta anche in persone che non hanno le caratteristiche tipiche della malattia. È una diagnosi un pochino complicata, si può supporre la diagnosi di celiachia con un semplice esame di sangue. E anche questi sono migliorati nel corso degli anni, e oggi direi che il gold standard si chiama anticorpi antitransglutaminasi, un nome un po' lungo, ma che ha sostituito altri esami che vedo ancora in alcuni centri fare, ma che hanno scarsa penetranza diagnostica rispetto a questo che invece dovrebbe essere effettuato. Sì. Accanto a questo però, per fare la diagnosi purtroppo è necessaria anche una gastroscopia con una biopsia della mucosa, delle celluline che ricoprono la prima parte dell'intestino, e la diagnosi di celiachia vera e propria si formula solo quando c'è una dimostrazione di alterazioni di questa mucosa intestinale insieme alla positività degli anticorpi antitransglutaminali. Quindi questi sono gli esami che permettono di fare una diagnosi. Questa coppia di esami permette di fare la diagnosi, esatto. Ed è attraverso solamente questo iter che si riceve l'esenzione. Esattamente, esattamente. Ma professore, però è anche vero che ci sono persone a cui il glutine fa male subito, lo dimostra chiaramente con sintomi, diarrea, arresto della crescita nei bambini ad esempio, però persone, anche adulte, scoprono di essere celiache avanti negli anni, per una serie di sintomi che sono molto sfumati. Esatto, assolutamente vero, è proprio questo che abbiamo imparato in questi ultimi 2 decenni, la diagnosi veniva fatta nelle forme classiche con i bimbi con diarrea e mancato accrescimento, magrezza eccessiva, e lì probabilmente avevamo imparato a riconoscere le stigmate più chiare, più frequenti. Oggi facciamo la diagnosi in soggetti direi anche di una certa età, dopo i 60 anni, addirittura obesi, che hanno condotto una vita assolutamente normale, hanno goduto dell'alimentazione tutta la loro vita, forse approfittandone anche troppo, nonostante ciò si trova questa diagnosi. Uno potrebbe dire, ma stanno bene perché fate la diagnosi. È necessario assolutamente fare la diagnosi in tutti, perché purtroppo l'esposizione continua al glutine espone a rischi di malattie anche importanti a livello dell'intestino tenue, fino al linfoma, per cui la diagnosi è necessaria. E quando qualcuno ha il sospetto di avere un disturbo anche minimo intestinale, direi che almeno in certi paesi in cui la prevalenza della celiachia è elevata, sarebbe indispensabile che noi medici facessimo questo semplice esame di sangue. Dottor Ungaro, ma il glutine è importante nella nostra dieta? Ma oddio, dal cosa mio serve? Punto di vista, dal mio punto di vista no, cioè è una sostanza lipoproteica che non ha una funzione fondamentale nel nostro organismo, può avere una funzione importante l'alimento che contiene il glutine, allora una grande varietà di cereali ovviamente. Devo anche dire che ci sono alcuni dati che indicherebbero una proprietà leggermente infiammatoria del glutine anche in soggetti che poi non sono celiaci. Quindi tutto sommato forse c'è da porsi anche la domanda se non sia una sostanza a cui siamo un pochettino troppo esposti anche per la quantità, diciamo, di cereali tipici della nostra dieta. Professor Sanghellini, quindi mangiamo troppi alimenti che contengono glutine e alla fine il nostro intestino sopporta, ma poi in un certo senso si irrita e diventa intollerante? Ma guardi, da un certo punto di vista non stiamo scoprendo niente di nuovo. Qualunque mamma, qualunque nonna, quando aveva un bimbo con il mal di pancia, toglieva la pasta e dava il riso, toglieva il latte e dava il tè. Quindi le intolleranze alimentari principali del latte e del glutine le conosciamo istintivamente da tempo. Il glutine, il frumento, non è un alimento di facile digestione. Le faccio un esempio: un etto di pasta viene assorbito fisiologicamente al massimo un 90%, in alcuni casi perfettamente sani un 80%, il riso viene assorbito molto di più e quindi teoricamente ingrassa di più. Quindi per tutti noi la digestione del frumento non è una digestione del frumento, ma anche del farro, della segale, del camut, dell'orzo, dei cereali che contengono glutine, non è facile, questo lo sappiamo da sempre. Adesso si sta creando tutto un nuovo movimento culturale, in questi casi sfumati, che non sono, come dicevi dottor Ungaro, non sono vere e proprie celiachie, ma sono infiammazioni minori dell'intestino apparentemente collegate all'assunzione di glutine. Quella che viene definita sensibilità al glutine? Esattamente, è molto di moda, sta diventando un business milionario la produzione di questi alimenti, ma la mia visione personale è che siamo di fronte a due aspetti. Da un lato, come dicevo appunto, sta diventando di moda e per cui alcuni vanno in questa direzione, come vanno nella direzione delle diete vegetariane, a volte anche facendosi del male, perché le diete dovrebbero essere tutte molto tagliate su misura per ciascun individuo. Ma in altri casi invece probabilmente questa gluten sensitivity esiste, senza necessariamente sfociare in una vera celiachia. L'incapacità di digerire in maniera appropriata il glutine in alcuni soggetti e di sviluppare quindi una sintomatologia intestinale quando assumono frumento o altri cereali contenenti glutine è una realtà. Quindi noi medici, anche se i dati scientifici non sono fortissimi in questo settore, dovreste porre grande attenzione. Attenzione, dottor Ungaro, quali sono i segnali che possiamo tenere sotto controllo e che ci possono far sospettare che siamo diventati sensibili al glutine? Volevo aggiungere anche una cosa, Nicoletta, rapidamente. Sono assolutamente d'accordo con il professor Sanghellini anche sul discorso del business per quello che riguarda gli alimenti, cioè credo che l'esempio che faceva prima della nonna, il cambiamento all'interno dell'alimentazione con alimenti normali verso una riduzione del glutine ha molto più senso che l'andare a comprare tonnellate di cibi per celiaci quando non c'è una celiachia. Quindi, tra l'altro, sono alimenti che sono prodotti che sono molto costosi, che vengono naturalmente presi dai celiaci, che hanno un'esenzione, ma poi c'è ancora un altro aspetto che vorrei poi su cui vorrei discutere con voi, ed è quello delle persone che eliminano il glutine dalla dieta pensando di dimagrire. Ma io vorrei conoscere bene i sintomi di questa sensibilità al glutine, dottor Ongaro. Credo che tutto sommato sia veramente da porsi la domanda in qualsiasi situazione in cui ci siano dei sintomi gastrointestinali anche molto sfumati, come può essere semplicemente il gonfiore. Cioè, stiamo parlando di situazioni anche molto lievi, ma che perdurano nel tempo e che non si risolvono con degli interventi, diciamo, momentanei, ma si ripresentano nel tempo con una certa regolarità. In questi casi credo che porsi la domanda se c'è questa sensibilità al glutine sia assolutamente utile e necessario. E professor Sanghellini, come faccio a capire che sono sensibile al glutine? Ci sono degli esami? Posso dire due parole sui sintomi, mi permetto solo. È molto giusto quello che stiamo dicendo, ma io vorrei ampliare un attimo l'argomento, perché da certi punti di vista ci sono manifestazioni anche extraintestinali, certo, in cui alcuni di questi pazienti, non solo con celiachia, ma anche con gluten sensitive, hanno delle manifestazioni. Le faccio un esempio: delle dermatiti, delle afte al cavo orale, addirittura la perdita di capelli senza arrivare alla vera e propria alopecia. Sono sintomi che vanno spesso misconosciuti da noi medici e che rientrano nella grande categoria delle intolleranze alimentari, che è un grande capitolo, che è ancora più grande della gluten sensitivity e che incominciamo a esplorare, anche se i mezzi diagnostici non sono ancora precisi come nel caso della celiachia. Andiamo a Margherita, che ci chiama da Torino. 800 24 00 24, benvenuta, buongiorno. Oh, buongiorno a voi. Come va? Noi andiamo bene. Lei, Margherita? Bene. Poi bene. Fin quando ci si sente, si dice così, no? Mi dica. Allora, io volevo, appunto, ci tenevo molto a parlare con voi, perché vabbè, io sono celiaca, ho 36 anni e ho scoperto appunto di essere celiaca dopo anni e anni di turnover in ospedale, medici, dermatologi, di tutto e di più, perché appunto stavo malissimo, ero magrissima e poi appunto all'età di 27 anni, ancora giovane, ma insomma ero un pochino più avanti, anche perché certo, io in realtà avevo la diagnosi di celiachia, me l'avevano fatta quando avevo 2 anni, ma una volta si pensava che poi la celiachia passasse, no? E quindi insomma, su questo volevo proprio far intervenire il professore anche. Professore, Margherita ha scoperto di essere, a volte la diagnosi arriva proprio come una liberazione, almeno dal racconto, sì, vero Margherita? Dal racconto di Margherita si evidenzia questo, professore? Sì, sono un po' preoccupato non tanto della diagnosi a 27 anni quanto della diagnosi a 2 anni, che poi non è stata seguita da un'adeguata terapia. Era stata fortunata Margherita 35 anni fa ad essere diagnosticata evidentemente da un bravo collega di allora, e poi purtroppo si è perso un po' le fila. La celiachia è una malattia che non passa e che quindi, una volta diagnosticata, costringe il paziente a seguire una dieta strettamente priva di glutine e di gliadina per il resto della vita. Almeno così è lo stato dell'arte attuale. Se poi si troveranno vaccini che sono in studio, eccetera, ma questo sarà il futuro. Per il momento è assolutamente indispensabile che anche minime tracce di glutine siano escluse dalla dieta, costantemente, tutti i giorni. Questo per i celiaci, mentre per chi ha invece una sensibilità al glutine, professore? Tutta un'altra situazione, non si corrono rischi importanti, ci si può basare sui sintomi e quindi la dieta può essere esplorata con più attenzione, magari alternando dei periodi di dieta estremamente stretta e confrontarli con periodi in cui si tenta di inserire quantità note dell'alimento che si pensa possa determinare i sintomi, in maniera da approfondire. La differenza fra i due gruppi, lo accennavo prima, è che la celiachia può esporre a complicanze severe, mentre la gluten sensitivity, per fortuna, no, solamente alla presenza di sintomi. Professore, tra i sintomi non intestinali della celiachia, lei aveva citato le dermatite, la perdita di capelli, le afte in bocca. Questi sintomi si ritrovano anche, magari in un pochino più sfumati, nelle persone che hanno una sensibilità al glutine? Sì, lo dicevo prima, sì, questa è una cosa molto interessante, assolutamente sì. Nelle persone che hanno una sensibilità al glutine, nelle persone che hanno allergie o intolleranze alimentari o a componenti che sono presenti negli alimenti. Un'altra cosa che noi medici dimentichiamo spesso è che gli alimenti, oltre l'alimento stesso, contengono conservanti, coloranti, aromatizzanti, molte sostanze chimiche che non vengono neanche mai ricercate da noi medici di solito e che possono, soprattutto nelle nuove generazioni, nei giovani, determinare dei sintomi. Ci sono persone, arriva dall'America da qualche tempo, dalle attrici americane, viene lanciata l'idea che eliminando il glutine dalla dieta si riesca a dimagrire, quindi una dieta senza glutine per perdere peso, dottor Ungaro. No, la dieta senza glutine per perdere peso non credo che abbia molto senso. Ripeto, se ci sono delle situazioni in cui la persona ha dei sintomi gastrointestinali, compreso per esempio il gonfiore, eliminando il glutine può essere che questo sintomo regredisca, però non è direttamente connesso con la perdita di grasso. Mentre credo che sia una buona pratica, io l'adotto molto con i miei pazienti, appunto in queste situazioni sospette, di adottare un approccio di eliminazione, cioè provare per un certo periodo a eliminare il glutine e introdurre, diciamo, la componente dei cereali da cereali privi di glutine, come per esempio il riso, in particolare il riso integrale che è ricco di fibra ma privo di glutine, e vedere se la situazione migliora, compreso le situazioni, come stavamo giustamente sottolineando, extra intestinali, come le dermatiti, che appunto molto spesso migliorano nettamente con un cambiamento di questo tipo. Però per la perdita di peso francamente non lo trovo un approccio molto utile. Professor Stanghellini, bocciata quindi? Sicuramente concordo al 100% con quanto dice il dottor Ungaro. L'unico mio commento è che se nella dieta italiana noi togliamo il glutine, togliamo il frumento, quindi togliamo la pasta e il pane, e quindi di conseguenza mangiamo non altrettanto riso, gallette di riso, quindi è solo in maniera indiretta, d'accordo. Ma se mangiamo la stessa quantità di riso rispetto alla pasta, potremmo al contrario ingrassare togliendo il glutine. Quindi ripeto, non ci sono queste regole generali da seguire per tutti. Elisabetta ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Come sempre potete seguirci anche su Facebook e su Twitter, e potete poi riascoltare la puntata scaricandola. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, io ho una figlia di 40 anni che da qualche anno ha scoperto di essere celiaca conclamata, per cui prende anche il rimborso per quello che compra in farmacia. Sì. Volevo sapere una cosa. E ha due bambine, una di 10 e una di 8 anni. Hanno dei seri problemi di ereditarietà, perché noi viviamo sempre con il patema d'animo che da un momento all'altro si conclami anche per loro la celiachia. Professor Stanghellini, una mamma celiaca. Una certa predisposizione genetica è riconosciuta in degli antigeni che magari a noi in questo momento non interessano, anche hanno dei nomi complicati, sì, ma che possono essere presenti nelle famiglie e quindi aumentare il rischio di ammalare. È molto semplice, quelle bimbe devono essere seguite e studiate almeno con un prelievo di sangue per escludere che non abbiano sviluppato gli anticorpi antitransglutaminasi. Questo è il test che consiglio di fare. Non esporrei assolutamente le bambine né a diete né tantomeno esami invasivi se il test delle antitransglutaminasi sono negativi. Professore, però questo è un test che dovrebbero fare le persone che hanno almeno un genitore celiaco? Sì, io consiglio nelle famiglie con un paziente celiaco in generale di studiare la presenza della celiachia in altri componenti. Abbiamo Michele che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buon anno a tutti. Anche a lei, io, Michele. Grazie, io volevo appunto esporre la mia situazione. Mi hanno diagnosticato l'intolleranza al glutine 3 o 4 anni fa, e dagli esami del sangue praticamente non risultava niente. Hanno riscontrato questo da una gastroscopia, dicendo che praticamente avevo i villi intestinali un po' consumati. Ma anche dal fatto che io avevo praticamente avevo sempre il ferro basso, però il ferro basso era compensato dalla ferritina alta e un cattivo assorbimento e una mancanza di vitamina B12. Allora mi hanno diagnosticato la celiachia dicendo che il cattivo assorbimento del ferro, della vitamina B12, dipendeva proprio dal fatto che io non avevo i villi intestinali, non assorbivano i villi intestinali. Per la sua intolleranza al glutine. E Michele, quindi adesso lei... Così, però il discorso è che io... il ferro praticamente non è migliorato, l'assorbimento del ferro. La vitamina B12 è sempre uguale, nel senso quando faccio... Quindi lei dice, Michele, seguo la dieta, ma i valori non ritornano alla normalità. Professor Stanghellini. Sicuramente non è una celiachia, l'appiattimento dei villi è indotto da altre patologie, non solo dalla celiachia, ci sono delle altre cause che evidentemente sfuggono, non posso neanche pensare, a parte che ci dovrebbe essere l'antitransglutaminase positiva per formulare la diagnosi, ci deve essere un'altra causa di malassorbimento intestinale che deve essere indagata, così i dati sono un po' pochi per formulare una diagnosi. Certo, e quindi gli esami devono essere bisogna due, procedere con l'indagine. Noi procediamo salutando Stefano Polato, che è in linea con noi, il nostro chef di Mangia con me. Stefano, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, il riso sì, è un cereale che piace, va bene per chi è intollerante anche al glutine, perché può consumarlo, e allora hai pensato una ricettina proprio per i celiaci. Il riso è uno di quegli alimenti che quando andiamo a sostituire la pasta riesce a mettere d'accordo un po' tutti in Italia. Quindi ho scelto proprio il riso, anche perché poco fa il dottor Ongaro ne ha parlato. Io faccio spesso un esercizio simpatico, rivisito le ricette classiche. Qui forse pecco un po' di campanilismo, in quanto ho rivisitato la ricetta classica veneta dei risi e bisi, una ricetta a base di riso e piselli, dove andiamo a sostituire il riso raffinato con il riso integrale. E pochi sanno, oppure prendono paura quando leggono le etichette del riso integrale, perché prevede una cottura lunga, 40-50 minuti addirittura. E pochi sanno invece che si può fare anche il risotto con il riso integrale, basta avere determinate accortezze durante la preparazione. Ma quanto ci mette con il risotto? Non finisce allora, mai? Basta dare una bollitura precedentemente al riso di 10-12 minuti. Sì. Lo scoliamo. Prima volevo premettere che il riso integrale comunque va sempre lavato, perché rimangono sempre delle impurità all'interno del riso, quindi lo laviamo bene sotto acqua corrente, lo bolliamo e dopo 12 minuti andiamo a procedere con la cottura del risotto come faremmo con qualsiasi altro tipo di riso. Come con il riso bianco. In 12 minuti il riso è pronto. Quindi andiamo ad aggiungere brodo vegetale, facciamo e via. E si procede come un risotto normale, Stefano. Esattamente. Quindi questo è un trucchetto molto interessante che ci permette di utilizzare il riso integrale, che il dottor Ongaro ti ricorda sempre di consumare, di preferire il riso raffinato. Professor Stanghellini, io la ringrazio molto per essere stato con noi, è stato davvero piacevole averla in linea. È stato un piacere per me fare due chiacchiere con voi. Allora torni a trovarci presto, grazie. Provi anche la ricetta, anche lei, la ricetta di Stefano Polato. Risi e bisi sicuramente. Con riso integrale. Professor Stanghellini, grazie. La ricetta di Stefano Polato naturalmente la trovate sulla pagina di Essere Benessere, ma abbiamo un trucchetto in più. Quindi si fa lessare il riso dopo averlo lavato 10-12 minuti e possiamo procedere al nostro risotto seguendo le indicazioni anche della ricetta di Stefano. Noi adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo alle borse e poi subito dopo il meteo, ma affronteremo un secondo cambiamento. Abbiamo detto, si può cambiare per necessità, succede alle persone che scoprono di avere un'intolleranza, ad esempio permanente al glutine, si può anche cambiare per scelta, diventare vegetariano. A tra poco. Siamo tornati insieme in questa seconda parte della trasmissione. Come anticipato, vogliamo parlare di chi decide di eliminare la carne dalla propria dieta e di diventare vegetariano. Le ragioni sono tante e diverse, c'è chi lo fa per spirito animalista, chi per rispetto dell'ambiente, chi per motivi salutistici. Una cosa è certa, vale per qualsiasi regime alimentare, è importante supportare le scelte con buon senso. Dottor Ongaro, molti dei nostri ascoltatori ci hanno chiesto di ricevere indicazioni e consigli per eliminare la carne dalla loro dieta e per affrontare questo passaggio in modo corretto. Per questo abbiamo proprio pensato di dedicare a questo tema la seconda parte della trasmissione, ma voglio sottolinearlo, senza alcuna intenzione di decretare la dieta ideale, quindi nessuna faziosità, ma informazioni utili nel rispetto delle scelte individuali. Dottor Ongaro. Sì, assolutamente, anche perché io davvero credo che non esista una dieta ideale. Penso anche che la ricerca scientifica stia indicando questo in maniera abbastanza chiara. Esistono degli approcci nutrizionali che favoriscono la salute e prevengono la patologia, però non esiste una singola dieta e un singolo approccio perfetto e capace di dare risultati in tutto. Certamente una cosa che sappiamo ormai da parecchi anni è che il consumo eccessivo di un certo tipo di carne, in particolare la carne rossa, in particolare la carne rossa grassa e, se dobbiamo dire la verità, in particolare quelle carni che derivano da animali che sono allevati a mangimi e che quindi hanno un profilo nutrizionale diverso rispetto alla carne di animali allevata al pascolo, certamente sappiamo che non fa bene. L'altra cosa che sappiamo senza dubbio è che aumentare l'introito invece di verdure è sempre una buona idea. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Luciana Baroni. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana. Tra l'altro, scusi, faccio una piccola parentesi, siete tutti veneti, Stefano Polato è veneto, lei anche, il dottor Ongaro, Facciamo un trio veneto. Un trio veneto. Tra l'altro, dottoressa Baroni, Stefano Polato ci ha dato una ricetta, una sua rivisitazione del riso ebisi con il riso integrale. Lei lo sa che si può fare il risotto con il riso integrale? Beh, diciamo che il risotto andrebbe sempre utilizzato con riso integrale, nel senso che i cereali sarebbe bene, e questo lo dicono tutte le linee guida. E questa viene fuori il medico? Certo. Bene consumare integrali. Però spesso noi, quando lo consumiamo integrale, lo consumiamo solamente lessato. Invece Stefano Polato ci ha insegnato a fare anche il risotto con il riso integrale, quindi riusciamo a mangiarlo anche nel risotto. Ma chiudo questa parentesi con i veneti e vengo subito a lei, dottoressa Baroni. Il dottor Ongaro ha fatto una breve intro, ma la sua società ha studiato naturalmente i vantaggi della dieta, del regime vegetariano per la salute. Certo, diciamo che noi ci siamo profusi nel raccogliere letteratura scientifica a supporto della validità nutrizionale di questo tipo di alimentazione, che è un'alimentazione che si basa prevalentemente su cibi vegetali, quindi cereali, legumi, verdura, frutta e frutta secca, e può includere minime quantità di latticini e uova. E coerentemente con gli studi scientifici condotti sulla popolazione generale, che come ricordava il dottor Ongaro, evidenziano come alcune malattie, tra l'altro purtroppo molto diffuse e molto invalidanti nei paesi ricchi, sono favorite, il rischio per queste malattie è aumentato da un eccessivo consumo di cibi animali, in particolare carni rosse, carni trasformate, e ridotto da un abbondante, cioè quanto più abbonda nel piatto il consumo di tutti i gruppi vegetali, tanto più questo rischio si riduce. Andando a vedere poi nei vegetariani, effettivamente si trova lo stesso andamento, cioè si trova che nei vegetariani, per quanto i vegetariani possano avere delle diete molto diverse fra di loro, comunque diciamo presi come gruppo in totale hanno una ridotta incidenza, un rischio ridotto, diciamo sono in parte protetti nei confronti di queste stesse malattie. Ad esempio delle malattie cardiovascolari. Legate all'arteriosclerosi, ipertensione, obesità, diabete, alcuni tipi di tumori, ipercolesterolemia. Tutte malattie che come sono diceva il esplose con lo stile di vita. Ecco, vengono chiamate molte di queste le malattie del benessere, ma come diceva il dottor Ongaro, aumentare sicuramente il consumo di frutta e verdura aiuta. Ma dottoressa Baroni, volevo chiedere a lei, se una persona decide di diventare vegetariano, può farlo dall'oggi al domani? O è meglio seguire questo passaggio con gradualità? Ma questo dipende un po' da come la persona vive la transizione. C'è chi decide di farlo proprio dall'oggi al domani e chi invece decide di farlo in modo graduale per paura di avere scompensi o altre cose. In realtà scompensi, non c'è il rischio di avere scompensi se si seguono quelle che sono le linee guida, diciamo, per una sana alimentazione, che possono essere traslate anche all'alimentazione vegetariana. Quindi diciamo assumere cibi nutrizionalmente densi, quindi tutti i cibi vegetali prevalentemente in forma integrale, limitando gli oli da condimento e limitando anche la frutta, che dal punto di vista nutrizionale è il cibo vegetale meno ricco, diciamo, limitando ovviamente, o meglio ancora, eliminando i cibi spazzatura. E se si mantengono latticini e uova nell'alimentazione, consumarli a rotazione con legumi, soia e altri alimenti proteici. Non pensare che togliendo la carne assolutamente devo rimpiazzarla con latticini e uova, perché questo è uno degli errori più importanti e spesso dannosi che fanno alcune persone. Diciamo che la cosa più fisiologica, volendola vivere in modo naturale, è quella di modificare l'abitudine, quindi inserire nella dieta abituale sempre una maggior quantità di alimenti vegetali. Progressivamente. Aumentare la varietà degli alimenti nei vari gruppi, quindi non consumare solo la pasta o il riso, ma certo, Inserire tutti i tipi di cereali, inserire tutte le verdure in modo... Quindi varietà ed equilibrio. E questo, diciamo, tende nel tempo, in breve tempo relativamente, a spiazzare dall'alimentazione, dalla dieta, i cibi animali. Insomma, quindi questa transizione è abbastanza dolce verso un maggior consumo o esclusivo consumo di cibi vegetali. Abbiamo in linea con noi, e per me è un grande piacere, Paolo Kessisoglu. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti. Iena, comico, attore, presentatore televisivo, mi fermo qui, ma è qui con noi perché Paolo, ho letto che tu, dopo anni di brasate polenta, hai seguito tua moglie, veneta, tra l'altro pure lei, oggi sono tutti veneti, e sei diventato vegetariano, insomma una scelta, vegetariano per amore quasi. Ma anche inizialmente. Perché, inizialmente. Come spesso accade, la via la indicano le donne. Poi se le donne trovano una persona entusiasta che ha voglia di mettersi in gioco, come sono stato io in quell'occasione, poi si fanno le cose insieme. Senti Paolo, e tu da quanto tempo sei vegetariano, e soprattutto qual è stato il cambiamento positivo o il cambiamento anche in generale che hai notato in termini di energia, di forza, di vivacità? Sì, ma va detta una cosa, per noi è stata una cosa, poi spiego meglio, improvvisa ma graduale, ora spiego. Cioè è stata una scelta, sì, nel senso che noi ci siamo posti il problema, anzi, quando mia moglie Sabrina era incinta. E quindi abbiamo pensato di provare a diventare vegetariani. Sì. Quindi come scelta è stata una cosa improvvisa, però graduale, nel senso che abbiamo incominciato lentamente. E poco dopo mi ricordo che io andai a fare un giro in bicicletta con degli amici che erano più esperti di me in questa disciplina sportiva, e mi ricordo che ero quello che aveva più energia. E non quindi, so se e era quindi un caso, se, dopo però che, insomma, fatto sta, tu hai trovato questo che andavi di più, che insomma diventare vegetariano ti faceva andare più veloce. Mi faceva più veloce, non lo so, duravo più a lungo, sì, avevo più energia. Dottor Ongaro, questa è l'impressione di Paolo, cioè lei che come la commenta? Ma io la commento che, giustamente come diceva la dottoressa Baroni, è una questione, anche quando si parla di dieta vegetariana e vegana, di farlo con le scelte giuste e con le cognizioni e conoscenze corrette. Cioè è chiaro che la dieta onnivora è più facile che sia una dieta sbagliata. Certo, se prendo l'onnivoro che mangia fast food tutto il giorno o dolci tutto il giorno, sì. È chiaro che anche la dieta vegetariana e vegana può essere sbagliata. Se mangio, che ne so, pasta tutto il giorno e non assumo cibi di origine animale, ma non sto nemmeno aumentando la quota di cibi di origine vegetale, però. Quindi c'è sempre un equilibrio, nel senso che i benefici di un approccio vegetariano vegano possono essere sì legati alla riduzione delle proteine della carne, ma potrebbero essere anche legati solo all'aumento delle verdure, che si può fare anche in un'alimentazione onnivora. Quindi la chiave della mia lettura è che bisogna avere le conoscenze per fare le scelte corrette. In generale è chiaro che il passaggio dall'alimentazione, chiamiamola non pensata, ad un'alimentazione ragionata, perché ho fatto una scelta, è comunque spesso sinonimo di un miglioramento della nutrizione della persona. Paolo, quindi tu, allora, quando ci siamo sentiti ieri abbiamo detto nessuno di noi vuole convincere un onnivoro a diventare vegetariano, nel contrario, ma Paolo, quindi tu dalla tua esperienza, prima di salutarci, quale messaggio lanci? Si può tentare? I benefici ci sono? Secondo me si può tentare, prima di tutto perché nella scelta, come dire, in questo cambiamento si seguono poi altri approfondimenti. La scelta di cambiare alimentazione porta poi dei cambiamenti ulteriori anche nella vita. Esatto, faccio un esempio, proprio in uno dei libri di Ongaro che, come dire, io stimo e che ho letto, si parla della pasta raffinata, per esempio, sì, che è piena di zuccheri e dell'importanza, no, degli alimenti integrali, che invece sono pieni di nutrienti e ci fanno bene. Ecco, tutte queste cose, sebbene la pasta sia un alimento che mangiano sia i carnivori che i vegetariani, che mette d'accordo è importante tutti. Appunto conoscere a fondo la materia, e finché non si fa un piccolo scatto l'alimentazione diventa un po' un'abitudine. È vero. Invece noi siamo verissimo quello che mangiamo. È vero. E quindi, insomma, auguri a tutti. Senti, auguri a tutti. Tra l'altro, nell'anno in cui si moltiplicano le manifestazioni per il decennale della scomparsa di Giorgio Gaber, tu con Luca tornerete a teatro prossimamente con Non contate su di noi. Sì, il titolo viene da una battuta di Sandro Luporini, che sì, è stata, come dire, la parte della coppia, sì, no, autoriale di Gaber, e che ci ha fatto l'onore di firmare insieme a noi lo spettacolo. La prima cosa che ha detto quando l'abbiamo incontrato: non contate su di me. E questo ci ha divertito molto. E invece noi contiamo, quindi, su di voi. Grazie a Paolo mille, per essere stato ci con noi. Ci troverete a fine marzo al Piccolo e a Genova al Politeama. E noi, quindi, verremo. Per chi vuole venire a vederci. E noi verremo di sicuro. Grazie a Paolo. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito insieme con i consigli della dottoressa Luciana Barone e del dottor Ongaro. Dottoressa Baroni, al posto della carne e legumi, è corretto? Le proteine nella dieta vegetariana vengono assicurate dal consumo di legumi, ma in particolare ce n'è qualcuno in particolare, e soprattutto in che quantità e con quale frequenza? No, diciamo che le proteine in una dieta vegetariana vengono assicurate da tutti i cibi vegetali. Sì. Che ne apportano in media in quantità superiori a quello che è la percentuale raccomandata di proteine in una dieta, che è intorno al 10-15% delle calorie totali. Perché lei pensi che sì, per carità, i legumi sono i cibi tradizionalmente considerati più ricchi di proteine, ma sì, la quantità, la percentuale di calorie da proteine dei legumi è la stessa della verdura. I cereali hanno una percentuale di proteine che è intorno al 14%, quindi c'è solo la frutta che, diciamo, è questa quantità. Quindi l'assunzione, in modo, come dicevo prima, variato di tutti i cibi vegetali fornisce proteine in quantità sicuramente superiore a questo 10-15%, ed è un po' in linea con tutto quello che succede anche negli altri tipi di alimentazione, in cui il problema semmai è l'eccesso di proteine e non la carenza di proteine c'è quando c'è malnutrizione, c'è quando ci sono problemi di accesso alle risorse alimentari. Nei paesi ricchi noi abbiamo il problema contrario, abbiamo un problema di non consumarne troppe, non di consumarne troppo poche. Dottor Ongaro, anche la dieta mediterranea suggerisce il consumo di legumi e di vegetali, ma soprattutto i legumi abbinati alla pasta potrebbero aiutare a ridurre il consumo di carne rossa, ad esempio, no? Che è spesso eccessivo. Beh, sicuramente. sicuramente sì, tra l'altro c'è questa combinazione di cereali integrali e legumi che compensa un po' la carenza aminoacidica dei legumi e rende, diciamo, il piatto più completo da un punto di vista proteico. Devo anche dire che secondo me le cose stanno anche un pochino cambiando, cioè tutti questi dati sull'eccessivo consumo di carne rossa, ricordiamolo, sono anche dati un po' vecchi. Credo che ci stiamo in qualche modo, assolutamente, indipendentemente dalla scelta vegana e vegetariana, credo che ci sia stato un ribilanciamento nel tempo e credo francamente che oggi bisogna anche porsi il problema, io lo dico, non è la prima volta che lo dico, ma di un eccessivo consumo di carboidrati, zuccheri e cereali e non solo del rischio di un eccessivo consumo di proteine. Su quello su cui siamo tutti d'accordo è mangiare più verdura, quello non c'è ombra di dubbio. Sicuramente la dottoressa Baroni è d'accordo, ma dottoressa Baroni, molti messaggi al 349-238-6666, ma era una domanda che volevo farle anch'io, mi chiedono, ma con il ferro come la mettiamo? Questo è un tormentone che torna tutte le volte che si dice mangio poca carne o non mangio la carne, la risposta alla domanda è sicuramente, ma allora il ferro, se soprattutto le donne in età fertile, il ferro in una dieta vegetariana? Guardi, il ferro è contenuto abbondantemente nei cibi vegetali, poi dipende cosa si intende per carenza di ferro. Allora, se intendiamo la manifestazione dell'anemia, non ci sono assolutamente differenze nel rischio, nella prevalenza di anemia nei vegetariani e nei non vegetariani. Se invece parliamo di quelli che sono i depositi di ferro dell'organismo, i vegetariani hanno effettivamente dei depositi ridotti, ma questo risulta essere un vantaggio. È un vantaggio perché si è visto che un eccesso di depositi di ferro può in qualche modo predisporre a problemi di tipo metabolico. Il ferro dei vegetali, di tutti i vegetali, è tutto ferro non eme e questo permette all'organismo di decidere quanto assorbirne. Cioè il ferro non eme può essere anche non assorbito, oppure può essere assorbito se è necessario. Il ferro eme, che è presente nelle carni, per il 40% del ferro delle carni, il ferro eme, salta questo processo di regolazione, quindi può essere assunto anche se l'organismo non ne ha bisogno, può creare degli eccessi di deposito e dare problemi non banali, perché parliamo di malattie cardiovascolari, parliamo di resistenza all'insulina e quindi sono, diciamo, situazioni che ultimamente stanno proprio venendo così rivalutate alla luce anche di quelli che sono questi vantaggi che hanno le persone che consumano poca carne. Forse una delle spiegazioni può essere proprio mediata da questo eccesso di depositi di ferro che hanno le persone che assumono molta carne. Dottor Ongaro? Assolutamente d'accordo, cioè non credo che questi problemi ci siano dei veri problemi. La stessa cosa è il discorso dell'assunzione di calcio se escludi latte e latticini, sono un po' non voglio dire dei miti, ma insomma un po' delle informazioni parziali che vanno rivalutate. In realtà si possono avere tutti i nutrienti indipendentemente da queste scelte. Mentre per quanto riguarda le vitamine, in particolare, dottor Ongaro, la famosa vitamina B12, come la mettiamo? Anche con la B12, certamente nell'alimentazione vegana, non vegetariana, quindi in quella che esclude, diciamo, anche latte e uova, può essere carente, però c'è anche da dire che è abbastanza raro vedere una carenza conclamata di vitamina B12, ci vuole molto tempo perché in realtà si instauri, però insomma può essere una buona norma tenere presente che l'introito di vitamina B12 avviene soltanto con alimenti di origine animale e quindi può essere la prima cosa da eventualmente integrare nel caso si scelga un'alimentazione vegana. Dottoressa Baroni, tra l'altro lei è vegana? Sì, io sono vegana e mi permetto di correggere quanto dice il dottor Ongaro in questo senso, nel senso che non è che è sufficiente la presenza della vitamina nella dieta per essere messi a riparo dalla carenza. E anche in un'alimentazione lattolo-vegetariana l'apporto di B12 a partire da latticine e uova non è sufficiente a garantire le richieste dell'organismo. Quindi cosa si fa? Diciamo che un'attenzione nei confronti della vitamina B12 dovremmo averla nei confronti di tutti i nostri pazienti, perché possono avere problemi di assorbimento. Su questo non può trovarne più d'accordo. Penso che siate entrambe d'accordo. Allora, io sono in chiusura e ho Stefano Polato che alla fine di questa chiacchierata ha pensato a un piatto per noi, che mette d'accordo tutti. Sì, allora prima siamo andati di riso e adesso azzardiamo qualcosa in più. Proponiamo un altro cereale, o meglio uno pseudo cereale, così chiamato perché non fa parte delle graminacee, ma a livello nutritivo sì. Rientra fra il gruppo dei cereali, la quinoa. Dove si trova? La quinoa oggigiorno si trova in tutti i supermercati. È facile. Di facile. Che sapore ha? Allora, ha un sapore molto buono, si avvicina molto, ci ricorda molto la terra e viene spesso venduto nella sua forma integrale. E ricordiamo che è povera di zuccheri, quindi amidi, ma ricca di fibre e di grassi, soprattutto insaturi. E l'aspetto interessante è l'altissima presenza di proteine, ne contiene almeno il 50% di più rispetto ad altri cereali. E la ricetta che volevo proporre è una pasta e fagioli rivisitata, quindi facciamo lo stesso procedimento nel preparare i fagioli, sì. Solo che al posto della pasta andiamo ad inserire la quinoa, che ha a differenza del riso, una cottura molto più veloce. Basta mettere 2 volte e mezzo il contenuto di acqua rispetto al volume di quinoa, facciamo assorbire tutta l'acqua ed è pronta. Quindi prepariamo la nostra crema di fagioli con le spezie che vogliamo, quindi rosmarino, salvia, alloro, e quando abbiamo pronta la nostra crema di fagioli andiamo ad aggiungere la quinoa, 12 minuti e abbiamo la nostra pasta e fagioli rivisitata pronta. E ricordiamo anche che è molto, molto ricca di lisina, che spesso si trova solo in carne, pesce e uova. Quindi e quindi, allora, con i consigli di Stefano Polato, tutti a tavola, grazie al dottor Ungaro, grazie alla dottoressa Luciana Baroni che è stata con noi. Le ricette di Stefano le trovate sul nostro sito. A domani. Radio 24. La passione si sente.